Buon video di tutti. Questo è il compleanno di oggi, adesso iniziamo sempre la terza parte, grazie al 1975. Iniziamo con gli Interstate Pickin, che è una canzone della rock band americana Mountain, considerato un classico rock e è stato il suo maggior successo, raggiungendo la posizione numero 21 nella Billboard Hot 100 Chart Record nel 1970. Infatti Pekin è stato anche successo per Ozzy Osbourne nel 2015 ed è stata apparsa in molte delle diverse canzoni famose. Questo brano è stato registrato nel 1970 durante le sessioni per l'album del gruppo Mountain Climbing. Il secondo batterista, Corky Laing, aveva sviluppato alcuni dei testi da parte di batteria prima ancora di entrare nella band. In seguito, quando il chitarrista Leslie West era alla ricerca di testi per una parte di chitarra che aveva scritto, lei tirò fuori le sue parti di testi scritti, riunendole a quelle di West, creare una serie di questa canzone. Quando ha visto il po' registrare le musiche di film, il bassista e scrittore Felix Papalini provò numerose volte per avere le missioni perfette. Quando di fatto punto, lei ha iniziato a utilizzare il campanaccio, quello che si chiama. Per contare i miei grandi. A Papalatti piace così tanto che non lasciò le mie, creando dentro immediatamente il riconoscimento. Ma si Mississippi Queen, Monty, E adesso andiamo a parlare di Instant Karma, punto esclamativo. Sono arrivato di Long Shine On, è il terzo singolo del solista John Lennon, registrato ancora sotto l'etichetta del Beatles, ovvero la SD. Il brano è una delle tre composizioni di Lennon, insieme a Imagine, Greenpeace, Chance, a figurare nella Rock Hall of Fame. La canzone è uno dei singoli più velocemente scritti, prodotti e pubblicati nella storia della musica pop. Venne infatti registrata negli studi Abbey Road di Londra il giorno stesso in cui fu composta. E uscì in negozio appena 10 giorni dopo. Il brano venne prodotto da Keith Sector e fu solo la prima intanto composizione soliste di Next Beatles a cui partecipò il celebre produttore di Coyote. Entusiasta del lavoro svolto da Sector, del sound del brano, Lennon si convinse ad affidargli la posta produzione dell'ultimo disco di Beatles, il progetto Deep Rock, divenuto infine l'album Let It Be. Il singolo viene pubblicato il 6 febbraio del 1970 con Master B, la composizione di Giappone, Wu Elvis Sing Wind, che l'hanno prodotto. E raggiunse la posizione numero 3 in classifica negli Stati Uniti e la numero 5 in Gran Bretagna. Il primo disco solista di Next Beatles a vendere oltre 1 milione di copie negli Stati Uniti. Per promuovere il brano, John e i Rocco apparvero nella trasmissione Top of the Top per due volte. Nella puntata del 12 febbraio 1970 ed è quella del 19 febbraio, dove Lennon eseguiva il brano al pianoforte. In un'occasione, Yoko se ne stava provocatoriamente con gli occhi blindati seduto su uno sgabello a lavorare a maglia. Una seconda apparizione, sempre blindata, mostrava di tanto in tanto quasi cartelle con messaggi emblematici come Peace, Hope and Smile. Il significato di questa canzone gira attorno al concetto di karma, un termine complesso che descrive la legge di causa e effetto che regola la vita di tutto ciò che è manifesto nell'universo, sia l'attività o la vita in sé, sia l'insieme delle conseguenze delle azioni compiute da un individuo nelle vite precedenti. In questo concetto, rispettare il proprio karma, compiendo azioni giuste durante l'esistenza terrena, può essere interpretato come un manifesto di pacifismo milleniano e dall'uguaglianza universale tra i popoli. Non c'è non, tradotto tutti rispondiamo allo stesso modo, affermato da Lennon nella canzone. Ed ora John Lennon, Instant Karma. Thank you. look at that man and he says, God. Wow, what's he saying? And here, fucking this guy. God, you don't like that. Adesso, una canzone di Derek and the Drummers, Leila. Leila è una canzone del gruppo in cui loro hanno no, no. Solo per la scaletta? Leila. Derek and the Drummers. Leila. No, perché è una verità di tutti i due. No, è una verità di tutti i due. No, è una verità di tutti i due. No, è una verità di tutti i due. Derek and the pubblica della Leila and the other aspect of the system, nonsense. Si dava con lei nella novità di 60. Un po' di due parti. La prima... Leila 1. La prima è un po' di Gleckson, per caratterizzare l'unità di Gleckson e Leila o il nome. La seconda è... Scusate, è il mio... Gleckson. La seconda è un po' di Gleckson. I'm going to go to the next one. Tipo originale a Hard Day Night. Ah, ma basta, non c'è niente di più. Negli ultimi anni di dicembre, però è un po' di negli ultimi anni di dicembre, ha avuto le carte scritte una quarta in cinque. Quattro lavorò la chitarra di Noel by Guitar Gretti Lutz, che è una di Mastro Fato, sì, esatto, un numero... Ma... E un po' resta da Polizieri, pubblicato nel White Album dei Beatles. Mentre Harry non suona la chitarra in Belgio, dall'album Goodbye the Queen, utilizzando lo pseudonimo. In quel periodo Clapton si riesce a innamorare di Patti Boone. Il titolo Leila fu ispirato dal romanzo I Vertigi, Malboom e Leila, del quale nascita Gezzani. Clapton venne a sapere della storia di Gezzani dal suo amico Ian Dallas, che all'epoca si stava convertendo all'ultimo. La storia narra di una principessa costretta a sposare che per volontà di suo padre un uomo diverso da colui che era perfettamente innamorato, causando la passione del tutto. In arabo cristiano, Malgium significa pazzo. La storia che si è molto chiesto in quasi tutta la storia è stata appoggiata in Patti Boone. Patti Boone di diverso da Eric nel 1987 e poi da Clapton nel 1979, dopo divorziare anche da lui. Nel 1989, dopo diversi anni di separazione. E adesso, bene che mi dormo, bisognate con le canzoni? Dai, dai, dai! I'm

Magic Woman, Santana. Adesso abbiamo un nostro podcast settimanale. No, I'm going to go to the next one. dai, su, ti danno un po' di preparativa, no? Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, continuiamo la seconda parte della terza parte della storia del rock 1970 e andiamo a parlare di Eddie Vedder Syndrome, dei Creedence Clearwater Revival, del primo ore. Scritto come sempre da Joe Floyd, che le cose che ha fatto lui, perché in un momento difficile per la band, la serata, quando ha iniziato a scrivere anche gli altri, sono stati. Come spesso accade, Eddie Vedder Syndrome fu interpretato in modo radicalmente diverso. La prima lettura riguardava il Vietnam e la poesia erano le bombe che cadevano dal cielo. La seconda riguardava il crollo degli ideali degli anni 70, detto che alla Kansas State University, la Guardia Nazionale dell'Ohio aveva ucciso 4 studenti e ferito altri 9. A quel giorno stavano protestando pacificamente contro l'invasione americana della Pandora, altri stavano semplicemente osservando la scena da lontano e queste sorte passavano casualmente di lì. Ma come ho detto, niente di tutto questo c'entra. Eddie Vedder Syndrome era solo il canto d'addio di un gruppo che due anni dopo sarebbe sciolto, lasciando molti sotto una pioggia, sì, ma di là. Come i maiali nel fango. Allora andiamo avanti, perché continuiamo con Black Knight, una delle più famose canzoni del gruppo Bad Rock Beat Python, lasciato prima con il singolo il 5 giugno del 1970 e poi inclusa nella versione del 25° anniversario del loro album Beat Python in Europa del 1970, come sempre. La canzone divenne una hit quando fu rilasciata salendo al primo posto nella classifica svizzera, secondo posto in gruppo norvegese, quarto posto in classifica austriaca e ottavo posto nella classifica olandese. Quindi, proprio un fatto tutta l'Europa. Tutta l'Europa. Grazie a Nico l'hanno iniziato anche lui. Anzi, l'Unione Europea. Quando il Beatpack di Rock fu completato, la Emi proposta la band di fare un singolo per promuovere l'album. Secondo i ricordi di Roger Roger, dopo aver perso 6 ore per trovare l'ispirazione, il gruppo andò a bere in pub dove consumò forte quantità di alcol, cosa che non dovete fare con i figli. Con il moderatore di essere più male. Se no, sì, così, se no poi rischiate di dover dormire in macchina che le porta a fine. Entrato il studio Ricci Blackmore cominciò a suonare un riff basato sulla canzone di Ricci Nelson. Ian Gillan e Glover descrissero il testo e recentemente il cantante ha dichiarato di non aver ancora capito quale ne sia il significato, almeno secondo le loro intenzioni iniziali. The Knight di Falco. Che erano di fatto Purple, Black Knight. Un attimo ho pensato che il Magar è stato la Io la Magar è stato la Perché metto la figlia? Andiamo via, Non mi sono saluto Roberto, Sicuramente. Adesso viene da morire, quindi prendi. Non vuoi comprovare il brano scritto da Pablo Morisi, che si incontra a questo lato, in mezzo al 70, non dentro, morire. La prima sera del secolo fino al 1977. È un brano prevalentemente acustico, il suo movimento di Pablo. Costruito su un basso elettrico ed accompagnato da pianoforte, chitarra per sotto, il quale è suonato con l'effettivo di fuori. Ma mori. La canzone è una bella musica, perché è preferita del compositore, Pablo Morisi. Perché alla fine del brano, Morrison, appunto, manda le canzoni di Pablo e non penso che mi inventata la parola Pablo Morisi. Non dentro la produzione del numero 226 della Lutus di tante signore canzoni, secondo la Lutus. E adesso, bambò, è venuto il numero. Thank you. Meno male che l'hai detto tu che Gilli ti ha ascoltato. Qualora non avevate l'intuito, torniamo a parlare con la luce del Remi Sertola e della sua opera ultima, ovvero dell'ultimo album, Morido Eterno. Ed è praticamente noi parliamo di Rodal Blues, che è una canzone psichedelica rock blues scritta e registrata dal gruppo rock americano Godot. Il brano apparso sulla di Dume Chilele è stato rilasciato come singolo dall'album, appunto, citato di prima, Morido Eterno, nel marzo 1970, e ha raggiunto la 50ª posizione della dei Billboard Hot 100. La canzone viene rapidamente in tutte quelle per il gruppo, la versione live che appare in seguito sull'album American Prayer è considerata probabilmente una delle migliori performance live di ogni canzone. Durante questa versione, Jim Morrison parla per un po' di un membro del pubblico femminile, il suo segno di natale, e con il suo vivere nuovo che si pensa, infatti che il pubblico scopre una fragorosa vita. La canzone è stata anche presente due volte nel film The Doors di Oliver Stone. Il fatto di dire, mi sono svegliato questa mattina e mi sono preso la vita, è stato ispirato da Alice Cooper, come poter essere sul suo plano proprio. E dove? Dove è qui? Insomma, allora ragazzi, mi devi raccontare una metodo di questa canzone, scusate se non ho capito. Il buon vecchio Jim Morrison, sapete dove ha registrato questa canzone? Non nello studio di registrazione, ma bensì ha allestito gli strumenti di registrazione in casa sua e lui registrava nel bagno, perché gli piaceva la fisica. Lui registrava a più bene nel bagno, nel bagno. A ognuno ha ognuno la sua fisica. Perché gli piaceva la fisica del bagno. Fantastico, allora è. I'm going to go to the next one. I medici d'Oscar con Rodau Giulio, cioè anche questa settimana abbiamo concluso con la storia del rock, precisamente nel 1970, la cosa fatta. E adesso apriamo la televisita, la situazione con le frasi, le più belle frasi dei telefonali, di cantanti, di carissimi, bassisti, e chi più anche la finita, le voci per le prime tempo. Con l'Italia la prima frase, siamo come scarafaggi, sopravviveremo a tutti voi. Vince Simmons, componente del Kiss. Fate loro che devo fare i vostri rotti tanti. Credo anche io. Non è aspettare il tempo, perché non è che non è mai più bravo. La seconda citazione è ultima. Robert Smith, cantante di Tour, la prima volta ha detto, allora l'hanno animato con i miei uomini. Mi piace andare in mondo a vedere, mettiamo il cinto. Non la vedo. Era un film con l'ultima persona che ho citato di oggi. Sì, infatti, sì, Sì, ricordiamo anche il contesto con il titolo personale che dovremmo cinque canzoni sempre sulla pagina Facebook, voi potete votare la vostra preferita. Io appuntamento con il prossimo, come sempre. Ciao a tutti, ciao.